suggestioni che provavate a richiamare, anche le domande, l'intervista al contrario su cosa vorremmo come insomma giovani far, che cosa non è molto chiaro del 77. Io penso che anche in cioè, prima di tutto fare una considerazione anche in relazione alla a quello che sta succedendo in questi giorni a Bologna, che assolutamente non voglio paragonare, ma anche rispetto al 77 un po' c'è questa, oltre ai vari riduzionismi che sono stati elencati prima, analizzati prima, io penso a volte che si rimanda a quegli anni spesso facendo una narrazione della serie che i giovani in qualche modo devono avere introiettato dentro di sé un certo ribellismo, un certo voglia di rivoltarsi contro quelle che sono appunto le istituzioni, come se fosse un dato di per sé scontato, e sembra insomma che a volte questa roba venga ridotta a proprio una domanda, quando a volte ci dicono, no, quando diventi serio, quando diventi grande, quando diventi adulto, e quindi smetti di avere quel lato ribelle. E lo stesso un po' sta succedendo con questa protesta che c'è stata a Bologna, no? Come i giovani che non hanno voglia di fare niente, ma hanno solo questo carattere qui di ribellione. Io credo che però invece dovrebbe sottolineare il fatto che la condizione giovanile in qualche modo che si è espressa in quegli anni ha una connotazione materiale specifica, che non è solo appunto voglia giovanile, come se fosse quasi diciamo infantile, no? Di ribellarsi a qualcosa, ma che ci sono delle condizioni che hanno fatto in modo che avvenisse quella ribellione che noi proviamo a ragionare per quanto riguarda il 77, e penso che questo debba emergere molto quando analizziamo quelle giornate, e quello che vorrei io che emergesse di più, che non mi è chiaro fino in fondo, o in parte mi è chiaro, però in parte lo vorrei ancora di più approfondire questo discorso, anche perché poi mi pare che questa condizione, quella condizione giovanile che si è espressa in quegli anni si sia poi aggravata ancora di più all'oggi, e anzi possiamo dire, questo forse è il patrimonio anche della lettura di tutto il movimento femminista che nasce anche in quegli anni, che poi la condizione appunto sia dei giovani che delle donne è praticamente estesa a tutta la società. Quindi quando evochiamo no, la ribellione giovanile, quando evochiamo, quando parliamo per esempio, per essere più chiara, di precarietà o di criminalizzazione del lavoro, è potenzialmente insomma rivoluzionario nella misura in cui è una lettura dell'intera società. Oggi questa cosa si è ancora più acuita, nel senso che quando parliamo di lavoro gratuito, parliamo di lavoro in casa, parliamo di una serie di dispositivi che poi in questo momento sono veramente estesi a me, che ho 30 anni, tanto quanto a chi ne ha 50, nel senso che è una condizione che stava iniziando allora nel 77 e che oggi mi pare che sia ancora più confermata ed estendibile. Quindi insomma, per finire, io se dovessi rispondere alle domande insomma che facevate prima dai microfoni, che cosa vorrei che si approfondisse di quegli anni, che non mi è chiaro, appunto quelle condizioni da cui nasce questa, questa ribellione, che spesso appunto è attribuita esclusivamente ad un appunto letture che vengono fatte probabilmente sbagliate, ad un senso di ribellione quasi naif, quando in realtà c'erano delle critiche importanti e che nascevano proprio dal rifiuto di una condizione che si viveva in quel momento. Si era capito cosa stava avvenendo e si era quasi, insomma, si stava quasi prevenendo un po' quello che sarebbe stato poi il futuro, se posso dire così. Sì, ci sembra molto chiaro l'interesse che tu poni, diciamo, principalmente. Cioè, io non a caso facevo quelle domande, perché bisogna pure cercare di invertire i ruoli, se non i ruoli perlomeno mischiarli, se non invertirli. E cioè, piuttosto che il solito racconto che comunque va fatto, ripetuto, perché comunque è una narrazione interessante, usiamo questo termine. E il problema è capire che il racconto resta comunque statico e anche ripetitivo, più di raccontarci per l'ennesima volta la giornata di Lama, non ne veniamo fuori. Viceversa, già le tue sollecitazioni fanno capire che va bene, ma come si è arrivati a questo, perché ci si è arrivati, quali sono stati i passaggi concreti. E poi anche magari, e queste sarebbero già le domande in positivo, se posso usare questa espressione, poi ci sono anche quelle in negativo, dice, perché poi è finito tutto, insomma, no? Anche questa secondo me è una, o è finito tutto, o comunque è scemato, è diminuito, non le aspettative, i risultati non sono corrisposti alle aspettative, eccetera eccetera. Quindi mi sembra giusto, insomma, ecco, il tuo approccio a questi aspetti. E credo che, insomma, tra l'altro, se ricordo bene, dopo domani c'è un'assemblea a Lettere, no? Sì, venerdì. Una iniziativa a Lettere. Venerdì, non dopo domani, scusa. Venerdì. Appunto, dove si prova a fare questi altri ragionamenti ai 40 anni dalla cacciata di Lama, perché sarà appunto tra il 17 febbraio, che è questo venerdì. Esatto, a Lettere alle 17, mi sembra. Sì, aula 5 a Lettere. Va bene, vediamo se ci sono anche altri interlocutori. Noi intanto ti ringraziamo. Grazie a voi. Ciao, ciao. Ciao.